Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Torniamo a parlare di carte e programmi fedeltà. Lo facciamo però raccontandovi una novità, la nuova frontiera social, a vantaggio non più solo dei singoli ma di una comunità allargata, e la nuova strategia della grande distribuzione. Seconda parte dedicata come sempre al focus sui trend. Quello di oggi è uno speciale retail. Cercheremo di intercettare tutte le novità in tema di negozi e spazi di vendita, come si stanno trasformando, quale scenario anticipano le nuove tendenze nel settore. Prima però le notizie e curiosità di questa settimana. Nasce a Milano il primo mini market del sociale, dove persone in difficoltà, su indicazione dei servizi del comune, potranno comprare generi alimentari di prima necessità a prezzi agevolati. L'attività apre in un negozio di via Leoncavallo, un bene confiscato alla mafia. Comprare una Ferrari o una borsa di Gucci potrebbe costare più caro ai cinesi. Secondo quanto si è appreso, il governo starebbe studiando una tassa sui prodotti di lusso, mercato che in Cina sta superando quello degli Stati Uniti. Hotel di giorno a metà prezzo. Punta su una vera e propria rivoluzione per l'hotellerie la startup tutta italiana daybreakhotels.com. Il portale permette di prenotare stanze e servizi dei migliori alberghi nelle principali città italiane dalle 10 alle 18. Tariffe scontate fino al 70% rispetto alle tariffe a notte. Si terrà a Milano il 7 e l'8 giugno la quarta edizione di Fashion Camp, l'evento che intende far incontrare il mainstream della moda con gli indipendenti, i fashion blogger e tutti coloro che sperimentano nuove tecnologie e punti di vista innovativi nel settore. Uscirà il 10 ottobre nel Regno Unito il terzo capitolo della saga capostipite del genere chick lit, Bridget Jones, il personaggio con cui oltre 15 anni fa la scrittrice Ellen Fielding aveva dato voce a una generazione di giovani donne allo sbaraglio, vendendo oltre 15 milioni di copie in 40 paesi e ispirando due film di altrettanto successo. È su Twitter e Facebook che ora Bridget combinerà guai. Spopola a New York la ginnastica paleolitica. È la prossima grande moda nel fitness, ha decretato il settimanale Time. Gli adepti della ginnastica dell'uomo delle caverne detestano le palestre. Chiave del regime fisico è usare la natura. Molti ginnasti si ritrovano a Central Park, camminando a piedi nudi, si arrampicano sugli alberi e trasportano legna sulla testa. La borsa della spesa. L'anno scorso ho passato 322 giorni in viaggio. Ho volato per 350.000 miglia. La luna ne vista 250.000. Le cose che tutti odiano del viaggiare per me sono confortanti reminiscenze che sono a casa. Bentornato, signor Bingham. Mi deve spiegare questa cosa delle miglia, come funziona? Io accumulo il maggior numero di miglia possibile. Siamo due persone attizzate dall'elite status. Bella intuizione, il portasciugamani. Peccato non essere arrivati all'armadio. Ve lo ricordate George Clooney, protagonista di Tra le nuvole, ossessionato dalle miglia delle compagnie aeree, una mania comune a molti viaggiatori, così come lo sono per i consumatori i punti, i bollini, le cards dei programmi fedeltà di molte insegne della grande distribuzione. Pentole ed elettrodomestici però, dicono gli esperti, hanno fatto il loro tempo, meglio puntare su sconti e servizi oppure offrire vantaggi per una comunità allargata di clienti, come ad esempio la scuola frequentata dai figli o gli abitanti dello stesso quartiere. Attrezzature e materiale didattico nel primo caso, arredi per spazi pubblici nel secondo. In Italia l'hanno fatto Conad, 11.000 scuole coinvolte per oltre 15.000 attrezzature informatiche distribuite, computer stampanti, videoproiettori e iPer, con la campagna Primi della classe, conclusasi a marzo. Ne abbiamo parlato con Bruno Figliuzzi, direttore generale di TCC, colosso multinazionale dei programmi di fidelizzazione che ha sviluppato il programma Community per Conad. In una situazione in cui l'economia l'economia è, diciamo, di scuola in difficoltà e parecchie aziende hanno difficoltà di consumi, le famiglie italiane hanno la stessa difficoltà da un punto di vista di risparmi, quindi selezionano, sono molto più attente, anche il programma di fedeltà si è evoluto conseguentemente, si è passato più a, diciamo, operazioni di breve periodo, quindi dove i risultati per il consumatore ma anche per le stesse aziende della distribuzione sono maggiormente evidenti. Nella fase di arricchire, se vogliamo, queste offerte per il breve periodo, si stanno utilizzando sia eventi speciali, come possono essere, che ne so, il lancio di un nuovo film della DreamWorks, per fare un nome, invece che programmi per la comunità, che danno quindi un premio che non va alla singola persona, ma va alla comunità, in particolar modo direi questo coinvolge le scuole. Questi programmi a livello internazionale sono partiti dall'Inghilterra, dove alcuni grossi società della distribuzione li hanno introdotti in modo direi ormai continuo, parliamo di società come Tesco, come Sainsbury. Poi si sono spostati piano piano in altri paesi. In Italia noi abbiamo iniziato 2 anni fa grazie a Conad, che nell'aprile 2012 ha lanciato una prima iniziativa su tutto il territorio nazionale italiano. Posso segnalare che c'è stata una scuola record in Emilia-Romagna che addirittura è riuscita a ordinare 41 premi e alcuni erano anche, diciamo, di estremo valore, estrema importanza. Sono programmi che generano nuovo business, che servono alla brand reputation, dove incidono di più? Ma noi crediamo che questi programmi incidono prima di tutto sul valore della marca, dell'immagine e il fatto di essere vicino al territorio. Dire la grossa differenza che portano questo tipo di operazioni è il fatto di coinvolgere proprio la comunità. Questo ha un risvolto d'immagine prima di tutto. Il secondo risvolto però è puramente pratico, permette sostanzialmente, facendo la tua spesa normale, di dare un aiuto alla scuola, e questa è la scuola dove vanno i nostri figli. In questo momento tutto questo ha un grande valore. Win-win, vincono tutti. Win-win, assolutamente. Altre insegne invece hanno puntato sulle cosiddette coalition card, le carte fedeltà multiple che permettono di raccogliere punti per catene diverse, supermercati, benzinai, negozi di elettronica. Il primo programma multibrand a sbarcare nel nostro paese è stato Nectar, che ha appena raggiunto il traguardo di 10 milioni di carte. Ecco che cosa ci ha detto Stefano Biglietti, direttore vendite di Nectar Italia. Siamo convinti che sia vincente sia per il consumatore che per l'azienda. Il consumatore perché sostanzialmente riesce in maniera molto più rapida ad avere un controvalore significativo per le spese che fa. E lato azienda invece significa poter accedere ad un sistema di CRM, di loyalty, che consente di poter avere una maggiore informazione sui comportamenti e sul profilo dei clienti e quindi poi di conseguenza di poter tradurre queste informazioni in azioni concrete, in promozioni che possono avere più successo. Perché? Perché sono tarate e studiate proprio in relazione al profilo, alle caratteristiche dei singoli clienti. Questa partecipazione, questa copartecipazione fa sì che gli investimenti per la loyalty, l'attività di CRM siano ripartiti fra i diversi componenti della coalizione. Una delle strade emergenti in questo settore è quella del risvolto sociale delle raccolte, quindi con iniziative a supporto delle comunità anche locali o delle scuole. È una strada che avete valutato, che valuterete? È una strada che stiamo valutando, è assolutamente interessante. Credo che riuscire a calare queste iniziative che hanno un respiro nazionale sul territorio e quindi su quello che sono delle istanze locali, magari molto circoscritte in determinati ambiti, possa essere una grande opportunità. Al momento non abbiamo ancora una proposizione totalmente strutturata, però la carta Nectar già di per sé si configura come logica di gestione per favorire questi meccanismi anche di raccolta tra famiglie, tra componenti e abitanti, che so, di un singolo paese. Quindi voi consentite il riscatto cumulativo? Esattamente, consentiamo di poter aggregare su conti anche numerosi i punti che queste carte, questi conti riescono a generare. Essere e avere. Non si può cercare un negozio di antiquariato in via del Corso. Ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Di nuovo in studio con Essere e Avere, protagonisti i negozi nel focus sui trend di questa settimana, in compagnia come sempre della nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Chiamati a una sfida sempre più dura con l'online, alle prese con un consumatore sempre più informato e consapevole, messi a dura prova dalla crisi e dalla perdita del potere d'acquisto, mai come adesso i negozi devono reinventarsi. Vetrina irrinunciabile per i brand, teatro di contaminazioni e nuove formule di vendita, il retail intercetta molte delle nuove abitudini di consumo e di vita. Patrizia. Sì, il cambiamento del retail oggi è fisiologico, innescato prepotentemente anche dalla crisi dei consumi, ma in realtà, per questo dico fisiologico, legato al più ampio cambiamento strutturale del sistema economico, del nuovo ecosistema digitale, conseguentemente della distribuzione, così come da cambiamenti sociali, nuclei familiari, dalle modalità stesse di informazione e di consumo che si traducono in processi decisionali e in comportamenti d'acquisto più complessi, cioè meno lineari, perché guidati e influenzati appunto da queste nuove variabili e non ultima da consumatori smart, selettivi, competenti, come dicevi, esigenti e in cerca di esperienze che vadano anche oltre i prodotti e i servizi al miglior prezzo. Tutto questo ha un impatto sui modelli di business delle aziende e sui punti di vendita, e ci sono alcune macro traiettorie che stanno investendo il retail trasversalmente ai settori. I negozi sono sempre più laboratori, per esempio, luoghi da esplorare, in cui imparare, scoprire cose nuove, dove provare anche i prodotti, fare test, il try before you buy, prima di comprare. Grande fenomeno che riguarda soprattutto il settore food, ma non solo, quello della vetrinizzazione, cioè di mettere sempre più in scena il processo produttivo, il fare. Per esempio inscenandolo con infografiche che didatticamente spiegano il processo bean to bar in cioccolaterie e pasticcerie, cioè dalla fava di cioccolato alla tavoletta o dal chicco di caffè alla tazzina, come racconta con grande efficacia narrativa Coffee Lab a San Paolo, un nome che è un progetto, cioè un coffee shop dove la vera esperienza per il cliente è la tostatura dei chicchi fatta sotto gli occhi dei clienti e il racconto che i baristi fanno ad accompagnare la degustazione del caffè. I negozi stanno diventando sempre più delle piazze, anche metaforicamente, cioè aperti, piattaforme di scambio, luoghi in cui socializzare, intrattenersi anche senza acquistare, per condividere e comunicare. Per esempio, un'assicurazione americana, State Farm, a Chicago, ha aperto una caffetteria, la chiamata State Farm Next Door, dove i clienti o potenziali clienti possono chiedere informazioni o ricevere su richiesta proposte di prodotti assicurativi in questo luogo inedito, informale, accogliente, che facilita appunto lo scambio. Scambio che è anche in chiave collaborativa tra azienda e clienti, è il caso di For Food, emblematico, un'hamburgeria gourmet di New York, dove la personalizzazione del prodotto diventa il punto di forza con questo modello di business. Il cliente propone la sua personale ricetta di hamburger che viene registrata, brandizzata con il suo nome, e For Food la crea e poi la propone ad altri clienti, e l'autore riceve le royalties in buoni sconto per ogni vendita effettuata. Quindi crowdtailing, questo nuovo termine per parlare di autopersonalizzazione fatta dagli stessi clienti. E sono anche teatri i punti di vendita, cioè luoghi attrattivi dove i prodotti vengono spettacolarizzati e i negozi diventano luoghi di intrattenimento, anche di divertimento, piacere e stupore. Sono store che offrono, per esempio, con estetica museale, un assortimento iperselezionato in modalità curatoriale dagli addetti, con criteri personali, così come una galleria offre opere d'arte selezionate dal collezionista esperto, o negozi che puntano sull'esperienza stupefacente della spettacolarizzazione degli interni. Per esempio Xocolati Chocolate, un marchio di lusso di cioccolato fatto a mano, tendenza emergente non solo a New York, che ha progettato il suo store con le pareti fatte interamente di confezioni di cioccolato impilate in verticale, sono verdi perché il packaging è rigorosamente verde, e queste confezioni sfilate dai clienti modificano l'interior design con un gioco scenografico visivo molto d'effetto, dove si crea il buco, diciamo, cambia il colore e quindi il pattern della parete e diventa una specie di wallpaper cangiante. Ha fatto notizia in queste settimane la rivolta dei negozianti e commessi americani, ne ha parlato il Financial Times, contro la prassi sempre più diffusa di andare a provare le scarpe in negozio per poi comprarle a prezzo più basso online. La soluzione migliore l'ha suggerita l'economista Ira Son: disaggregare il prezzo. Sul cartellino dovrebbe cioè comparire il costo del servizio a fianco del costo del prodotto. A parte, il tema accende la discussione anche in Italia, avremo modo di parlarne. La notizia ci ha ispirato questa citazione cinematografica. Edward Lewis. Oh, sì, signore. Vede quella signorina lì? Sì. Avete qualcosa in questo negozio che sia bello come lei? Oh, sì. Oh, no. No, no, no, no, no. Io dico che abbiamo molte cose che sono belle come lei le vorrebbe. A questo concetto volevo arrivare. E su questo non c'è dubbio. Per questo scusi, sai che abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di avere molta gente a disposizione. Cosa? E le spiego perché. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro. Mary Pat, sì. Mary Kate, Mary Francis, avanti, svelte. Vediamo questo qualcosa. Questo è assolutamente divino. Mi scusi, signore. Sì? Esattamente, per sfacciata somma di denaro, che intendeva? Disinvolta o, diciamo, spudorata? Spudorata, diciamo. Quanto mi piace quest'uomo. Ebbene, il resto lo conoscete tutti. Patrizia, allora, più di 20 anni fa, era la personalizzazione, il servizio su misura, il valore aggiunto. Oggi la sfida è molto più dura. Un negozio oggi non può più essere solo un posto dove acquistare. Se un negozio soddisfa solo il bisogno delle persone legato a singoli prodotti, non sta creando un vero valore per il cliente. È un posto di mere transizioni e ogni sito di e-commerce quindi può fare la stessa cosa. La mera esposizione di prodotti senza un qualche dispositivo emozionale o esperienziale che sovraccarichi l'acquisto, quindi non è più sufficiente per far entrare le persone nei punti di vendita fisici. E ci sono molti modi per arricchire l'esperienza dei consumatori: il format, gli eventi, la tecnologia, il servizio. Cito il caso CEA Brasile, vincitore del Retail Innovation Award 2013 con il progetto Fashion Like, un negozio di abbigliamento che ha integrato negli appendini un display che riporta il numero di like che ogni capo riceve in tempo reale su Facebook. Facebook, che sappiamo non è più solo diario e bacheca di scambi personali, ma anche grande canale di marketing integrabile con il punto di vendita fisico. Il cliente quindi sa quanto piace ciò che sta scegliendo. È un'altra declinazione del social shopping, se vogliamo, cioè la rete che influenza gli acquisti. Dunque un caso emergente di riferimento per il retail cross canale, già preso a modello da altri brand, non solo fashion, nella loro pianificazione media. La sfida più difficile per il retail è quindi appunto individuare nuovi bisogni emozionali dei consumatori e progettare nuove customer experience che ormai sono nelle attese dei consumatori stessi, quindi sono un implicito ma allo stesso tempo un terreno su cui innovare offrendone di nuove. Per esempio coinvolgendo i consumatori clienti come partner per nuove idee di servizio. Il negozio di moda vintage di Tokyo, Pass the Button, nasce con l'idea, per esempio, di preservare storie e memorie dei capi venduti, che sono il vero valore per chi acquista. Quindi compro un capo, ma di fatto compro una biografia, un capo intriso delle vite degli altri. Chi porta i propri capi consegna quindi al retailer una scheda che entra nel database e sarà consultabile dagli acquirenti. O iniziative innovative legate agli spazi degli store. Hellmann's, nella catena Saint Marsh in Brasile, ha continuato la sua iniziativa di ricette personalizzate, non più sullo scontrino alla cassa, ma su un tablet montato sui carrelli della spesa, che rileva i prodotti a marchio Hellmann's e gli altri nel carrello e di nuovo li combina con ricette che propone in tempo reale mentre si fa la spesa. In un mese di iniziativa sono stati coinvolti 45.000 consumatori, con un aumento delle vendite dei prodotti a marchio del 70%. Tedesco, UK, brand sempre innovativo nelle sue iniziative, per Pasqua di quest'anno ha lanciato Easter Egg, uova di Pasqua disseminate che andavano scovate dai clienti concorrenti con Google Street View. E per semplificare la vita dei consumatori, Avoid the Shopping Crowds, è nata un'app sviluppata per ora in Olanda e utilizzabile quindi solo lì, che aiuta i consumatori a risparmiare tempo segnalando i negozi più affollati in quel momento. Semplice, rileva i cecchini, i tweet, le foto postate sui social e vede le concentrazioni delle persone nelle diverse venue. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo ad Amsterdam su retail e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Alessia Zampano, ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Lo svizzero Karl Lagerfeld ha recentemente inaugurato uno dei suoi primi flagship store. 150 metri quadri, tutti giocati sui toni del bianco e nero, che rimandano inconfondibilmente al suo stile, e che ospitano le collezioni di abbigliamento uomo e donna, scarpe, borse, accessori, edizioni limitate, fino a oggetti di design e libri di fotografia d'autore. Ma oltre alla moda, un'altra protagonista indiscussa del punto vendita è la tecnologia digitale, che lo stilista ha completamente assorbito nella sua filosofia di business, essendo lui stesso, in quanto personaggio decisamente iconico, seguitissimo sui social media, tanto che perfino la sua gatta, Choupette, vanta un account Twitter. A disposizione dei visitatori, infatti, nel negozio ci sono dei guestbook digitali, in pratica degli iPad, con cui navigare, visitare lo shop online dello stilista ed eventualmente lasciare messaggi sulla sua pagina Facebook. E a completare la digital experience, i camerini sono dotati di uno schermo touch attraverso cui fotografare il proprio look, personalizzarlo con dei filtri in stile Instagram creati dallo stesso Karl e condividerli in rete. Grazie Alessia. Patrizia, tanta tecnologia, lo abbiamo sentito, cross canalità, condivisione. A che cosa non dovranno rinunciare i negozi del futuro prossimo venturo sulla scia delle tendenze che abbiamo intercettato in tutti i casi che abbiamo citato? Ci sono alcune parole d'ordine che sono anche legate alla soddisfazione dei clienti, come emerge tra l'altro dall'ultimo rapporto 2012 della ricerca biennale condotta da Doxametrics per CFMT sulla soddisfazione degli italiani, con riferimento anche al retail. Sono professionalità, informazione, problem solving, value for money, customer care. Dunque i fondamentali sono un po' sempre gli stessi. Le innovazioni cross canale per i punti di vendita sono tutte da inventare. Ed è tutto anche per questa settimana. Se vi siete persi qualcosa, se volete dirci qualcosa, c'è il sito di Radio24, c'è la pagina Facebook di Essere Avere, oppure la mail essereavere@radio24.it. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.